Canto una suora, il vestito era bianco, il sorriso era triste, la sua mano tremava, se toccava una cosa che non fosse sua. Canto una suora che decise una scelta, che si è giocata tutta una vita senza avere neppure più un tetto. Sì, canto una suora che prega tuttora e il pomeriggio nel parco lei sorride ai bambini. Se volta la testa non è per curiosità, lei lo fa per donare un sorriso d'amore. Canto una suora che ha avuto il coraggio di amare un altro uomo che non fosse Cristo, ed oggi ha un bel viso ed ogni mattino è una bella risata al destino. Canto una sorella, senza sorelle, senza fratelli, la solitudine è presente, lei piange continuamente. Canto una suora che oggi ha un bel viso ed ogni mattino è una risata al destino, e prima del suo sonno lei prega solenne e spera ancora un po' di speranza. Porca miseria, fra tanti sei sola ed ora rischi come tutti gli altri. E così sai che cos'è il sacrificio, adesso sai che cos'è il vero sacrificio.